La zanzara forte spara, con Cruciani e con Parenzo dico solo quel che penso. Con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Fra noi e Berlusconi c'è un rapporto non politico soltanto, morale. Lo strumento lo capisce? Morale, sì, non umano. C'è. Ma posso chiedere quindi se io, viene prima se Berlusconi viene, se Berlusconi, la vicenda di quindi Berlusconi. Se Berlusconi viene condannato, secondo me ingiustamente, io lascio la politica. Per me la politica non ha più senso. Già ora faccio fatica a fare politica se non c'è Berlusconi. Figuriamoci se Berlusconi viene condannato. Io, per me la politica è finita. E come me, la pensano così milioni di italiani. Diciamolo subito, caro Parenzo, il paese è in lutto. Il paese è in lutto perché Bondi ha dato questo annuncio. Un annuncio clamoroso. Smetto di fare politica se Berlusconi viene condannato. Io non ho ancora capito il collegamento tra la condanna di Berlusconi, che evidentemente viene giudicata politica, e uno che dice smetto di fare politica. Ma lasciamo perdere. Comunque il paese è ufficialmente in lutto perché Bondi ha dato questo annuncio. La politica italiana avrà una gravissima perdita a partire probabilmente dall'inizio di agosto, se Berlusconi dovesse essere condannato. Bondi lascia la politica. Quanto vi lascia attoniti questo annuncio? Sempre Bondi, Togliatti ha fatto l'amnistia per i fascisti. Nel dopoguerra Togliatti ha fatto l'amnistia verso i fascisti. L'amnistia. E quindi è stato un leader coraggioso che ha evitato la guerra civile, ha evitato un dramma politico, ma quelli erano veri leader politici. Come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo e ti sei trovato giù. Ora ti fa male un dito. Beh, caro Parenzo, ho saputo da fonti anonime che questa sera ti trovi. Sì, ma non c'è bisogno di dire buonasera in questa trasmissione, al massimo puoi dire vaffanculo. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì? È una formula che tu odi. Odio. Fa perdere tempo. Infatti tu mi fai vuoi farmi nervosire, lo so. Vabbè, d'accordo. Sì. Dunque sei oggi nel tuo habitat così naturale, no? È questa la festa del Partito Democratico? Sì. Lei è un sostenitore, mi pare, del governo Letta, no? Ma chi è lei? Sono Parenzo di Radio 24. Dica, se mi vuole intervistare. Sì, ma che no, è il Papa capire, questo qua? Questa è la festa del PD, no? Esattamente, ma sì. Ancora è presto, ancora non c'è nessuno. Non c'è. Più tardi, dopo le 8. Dopo le 8. Dopo le 8. Sì. Però c'è un clima un po', come dire... Lo so, è il primo giorno che vengo. Ah, ok. No, ma rispetto al governo, c'è un po' un clima, una maretta, no? C'è un po' di maretta. Io non la seguo molto la politica. No, ma no, infatti, e che cazzo sta fanno? Beh, c'è grande maretta. Detto, ma non è vero, ha detto il contrario. Sì, sì, sì. Ah. Okay, c'è grande maretta, dovrebbero ritirare la delegazione dal governo. Ma non è vero, ma non è vero. Sì, queste sono opinioni raccolte. Guarda, è tutto in presa diretta, quindi non c'è filtri, non c'è un'informazione faziosa, non c'è nessuna informazione faziosa. Staccare la fila al governo, questo è quello che vi sento di raccontarti da qui, dalla festa del PD di Roma. Grazie, ci sentiamo più tardi, per ora è tutto, a voi studio. Le grandi interviste di Parenzo, vabbè. Senti Malan, però, sentite anzi Malan, un altro del PDL, che dice: gli stupri vanno in prescrizione. Berlusconi, no, non dovrebbe andare in prescrizione nulla. In una giustizia che funziona, non dovrebbe andare in prescrizione un cazzo. Vanno in prescrizione proprio in Cassazione omicidi, stupri, violenze, rapine. Berlusconi, quando non c'è prescrizione imminente, viene calendarizzato in 21 giorni. Ci è chiesto, ci sono degli precedenti di calendarizzazione così? Sì, ce ne sono due deputati del Popolo delle Libertà nel passato. Sentiamo che dice. Guarda anche caso, l'altro nostro stupratori, ospite. Assassini no, tre Ivan deputati Scalfarotto. Nostri, sì. Vabbè, Poi ci sono quelli che sbarellano, come il signor Giarrusso. Te lo ricordi l'amico Giarrusso del Movimento 5 Stelle? Parenzo? Il compagno Giarrusso. Certo. Compagno Giarrusso, te lo ricordi, no? Quello che insulta i giornalisti per strada, quelli di Quinta Colonna, per esempio, di Mediaset, no? Voleva menare il signor Romano, chi è che Sì, uno che si chiama Romano, sì, Romano. Ma al di là di questo, Giarrusso, cioè Giarrusso con un barbone siciliano, Giarrusso, ogni volta che lo chiamiamo noi della Zanzara, no, vai, ho andato a fare in culo. No, ma insomma, una cosa simile, io non vengo da voi. Fate disinformazione. Ma quale disinformazione, signor Giarrusso? Non ha tutti i torti, ha ragione. Comunque il signor Giarrusso dice che Mediaset, siccome secondo lui non ha le concessioni, dovrebbe essere oscurata Mediaset, signor Giarrusso. Mediaset non ha le concessioni, le autorizzazioni per trasmettere i suoi programmi. Quindi se questa è la linea, che non esistono concessioni e autorizzazioni, noi chiederemo alla Guardia di Finanza a che titolo trasmettono la rete Mediaset e di provvedere di conseguenza. Vabbè, abbiamo già un ospite pronto, perché ovviamente le follie di questi giorni non sono solo del partito del PDL, che Berlusconi oggi dice che deve tornare a Forza Italia, però c'è la grande confusione del Partito Democratico, che non sa che pesci prendere, caro Parenzo, non sa assolutamente che pesci prendere. Divisioni, che c'è, Parenzo, che c'è? Dove posso trovare una maglietta con Epifani? Con la faccia di Epifani. Ma perché la maglietta con la faccia di Epifani? Non c'è qui. No, ma se non la trovo alla festa del PD, la maglietta con Epifani non la trovo. Non ce la mette nessuno. Epifani. Guarda, la maglietta di Epifani. Domandala. Grazie. Voglio mettere la maglietta con Epifani, perché voglio fare un'informazione libera. Ma scusa, perché dovrebbero avere la maglietta con la faccia di Epifani? Sì, effettivamente anche questo è vero. Allora, senti un attimo il PD, la divisione del PD è tutta in questa cosa qua. Senti Speranza, il capogruppo alla Camera, che dice che Berlusconi... Ma è un bel cognome Speranza, perché effettivamente di quest'epoca c'è bisogno nel PD di Speranza. La faccia è mortuaria, la faccia è mortuaria, quella di Speranza, un po' mortuaria come faccia, lo dico con benevolenza, non lo dico con cattiveria. Speranza, la legge del 56 dice che Berlusconi è eleggibile. La legge è una legge del 57, secondo quella legge Berlusconi non è ineleggibile, per cui noi, come sempre abbiamo fatto, rispetteremo la legge, con la stessa chiarezza con la quale le ho detto che in caso di... Vabbè, poi spiega, eccetera, eccetera. Si mettesse d'accordo col suo omologo al Senato, il signor Zanda, che Parenzo dice che Berlusconi... Ciao, ma chi è? Zanda, Berlusconi ineleggibile a maggio. Parte tecnica della 7. Aspetta. Io devo dire che considero, ai sensi del nostro ordinamento, Berlusconi ineleggibile. L'ho detto più volte, l'ho dichiarato, ed è una mia convinzione. La convinzione, io penso che, insomma, che ci sia un modo, debba esserci un modo sensato di interpretare le leggi. Quindi... E che non si possa dire che l'ineleggibile con Fanonieri invece eleggibile Eccoci qui, la Zanzara inizia in questo modo. 800 24 00 24, c'è moltissima carne al fuoco. Siamo con uno dei più anti-berlusconiani del Partito Democratico, uno di quelli che si è battuto contro il governo delle Langhe Intese a favore di Prodi Presidente della Repubblica, Sandro Gozzi, grande maratoneta. Buonasera a voi. Allora, signor Gozzi, dove si trova innanzitutto? Affannato, col motorino, come sta? Mi trovo in taxi in pieno centro a Roma. Taxi in pieno centro a Roma. Senta, ma ha sentito quello che dicono il PDL sulla condanna eventuale di Berlusconi, no? Cioè che la politica è finita. Si lamentano che non ci sia la prescrizione, no? Sì, si lamentano di questo. Del fatto che la Cassazione ha battuto ogni record di velocità, eccetera, eccetera. Ma lei, che è al governo col PDL, con questi che fanno... Non dica così, che me lo ricordano, mi vengono subito le convulsioni se penso che il governo con Gasparri. Lo so, signor Gozzi. Subito le convulsioni. Se lei me lo ricorda troppo mi fa del male. Sono cose che colpiscono. Sono cose dure. Cioè lei, pensi, ogni volta che si sveglia la mattina va davanti allo specchio e dice: io sono alleato con Gasparri. Che effetto le fa? Pessimo, tanto che devo subito andare a correre per scaricare la rabbia. È così, capito Parenzo? Ma questa è no, la... Ma non solo, perché la lista è lunga, amico mio. Lei ogni mattina si deve svegliare e dire: oggi voterò come Dani Sverdini. Questo è un giorno che lei spesso ha votato come Dennis Verdini, così. Come Dennis Verdini, questo veramente l'avevo rimosso. E i chilometri aumentano ogni mattina perché le tostine aumentano, quindi devo correre di più per dimenticare. Scusi, signor Gozzi, ma lei si vergogna un po' di stare col PDL? Sì. No, continua a farmi abbastanza schifo, come è successo ieri pomeriggio, in cui ci abbiamo rasentato la follia, insomma. Cioè, le fa un po' schifo, eh? Ma è una rarità. Ieri il mio partito è stato una rarità perché insomma ha ignorato totalmente l'opinione dei nostri elettori, dei nostri iscritti. Che infatti sono incazzatissimi, eh? Cioè, sono... Devo dire che hanno ragione. D'altra parte non è che poi stando nel gruppo possiamo sempre votare contro il gruppo, però ieri hanno fatto un errore non solo nella scelta, ma nel modo in cui è stata comunicata in aula. In aula ci siamo messi ad attaccare il Movimento 5 Stelle, non ho capito che cosa c'entrasse attaccare il Movimento 5 Stelle. Cioè qualcuno ha fatto una mezza rissa col Movimento 5 Stelle, una cosa pazzesca. Sì, cioè. Appunto, si poteva motivare in altro modo. Cioè se uno deve fare una rissa... Ma presentata così è stata drammatizzata e ci siamo fatti del male da soli, ma questo alla sinistra piace molto. Scusate, ma ci va... sì, ci va, io... Perché ho detto no, ci vati? No, perché ho davanti una scritta ci vati, ho scritto una cosa che riguarda Civati e... Ma lei, a proposito di Civati, che mi è venuto in mente adesso, ma lei lo appoggerà nella corsa alla segreteria del Partito Democratico? Non lo so. Tipo Civati è una persona in gamba. Ma come non lo sa Gotti? Se non lo sa lei, l'ha pensata allo stesso modo, più o meno. È un talento, è un vero talento. A volte potrebbe cercare di essere un po' più inclusivo, un po' fare un po' più squadra. Vabbè, magari di qui al momento in cui le candidature sono formalizzate, chissà. Però secondo me ce ne fossero, di Civati. Scusi un attimo, Gozzi. Allora, lei ha detto che le fa un po' schifo il fatto di stare insieme al PDL. Io lo capisco, per carità. Però le dico una cosa. Berlusconi decide di andare avanti, ne dice di tutti i colori, sui giudici, eccetera, eccetera. Però Berlusconi vuole stare assolutamente in questo governo, perché fuori da questo governo forse la sua posizione è più debole. Cioè, voi state facendo un grande favore a Berlusconi con questo governo, no? Ne è consapevole? Ma Berlusconi comunque secondo me è all'angolo comunque, e credo che dato che in assenza di altre scelte siamo ruzzolati in questo governo, dovremmo utilizzarlo per fare qualcosa per gli italiani senza invece ogni minuto occuparci dei problemi di un italiano che è Berlusconi, perché voglio dire, adesso che ci siamo facciamo qualcosa di concreto per l'Italia, perché l'Italia va male, non va male a causa delle larghe intese, va male per un sacco di motivi. Senta Gozzi, un'altra cosa. Pensiamo ai 60 milioni di italiani, non all'unico italiano che non ha bisogno di altro, insomma. Che non ha bisogno che gli altri pensino a lui, Che non ha bisogno anche dal punto di vista economico, dice lei, no? Cioè non ha bisogno di essere aiutato economicamente come gli altri italiani che stanno male magari, no? Beh, direi proprio di no. Scusi, signor Gozzi, però il suo partito, alcuni dicono che Berlusconi è eleggibile, altri dicono che no. Zanda dice una cosa, Speranza, il suo capogruppo Speranza, cioè, lei si riconosce in quello che ha detto? Speranza ha detto Berlusconi per la legge del 57 è eleggibile, non bisogna considerarla, pure la Finocchiano. Io detto... mi sono da tempo iscritto alla scuola di Luigi Zanda in questa materia, quindi per me vale la dottrina Zanda. Cioè lei passerebbe volentieri al Senato essere qui. Io abolirei il Senato, quindi magari potrei fare al Senato come ho fatto con la Margherita. Mi sono iscritto negli ultimi 10 mesi per scioglierla, volevo superare. Potrei andare al Senato per lavorare attivamente per l'abolizione del Senato. Scusi Gozzi, comunque la dottrina Zanda, Zanda e la dottrina Cassolo mi convince, perché di fatto Berlusconi controlla le sue TV e credo che l'applicazione della legge 1957 sarebbe dovuta fare già nel 94. Dunque è ineleggibile. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia mi adorano perché... c'è ancora qualcuno che usa parole del genere. Per esempio la signora Gelmini, Maria Stella Gelmini. Conosci Parenzo Gelmini? Una maglietta di Epifani. Ma questo comprare. Vabbè, è fissato con la maglietta di Epifani, vabbè. Qui da noi no, una maglietta di Epifani. Parenzo! Una bistecca, scusi. Parenzo, sì, conosci la signora Gelmini? Maristella, sì. La signora del tunnel. Senti, Berlusconi recordman. Berlusconi è record man dal punto di vista economico, imprenditoriale, politico. Oggi gli è riuscito un altro record, quello di rendere veloce la giustizia italiana. Noi ci auguriamo che lo sia per tutti gli italiani e non solo ad orologeria per Silvio Berlusconi. Mi adorano perché abbandono il mio corpo. Allora, siamo qui con Sandro Gozi, deputato del Partito Democratico. Devo dire una cosa che per me è alla guerre come alla guerre, caro Parenzo. Cioè, il PDL ha tutto il diritto di usare qualsiasi mezzo, considerando quella dei magistrati una guerra, sai quel reportage servizio di Mediaset, no? La guerra dei vent'anni. Siccome il PDL considera questa storia Berlusconi giudici come una lunga guerra che dura vent'anni, e secondo me in parte c'è anche una ragione di fondo, allora ti dico una cosa, ti dico che tutti i mezzi, parlamentari, non parlamentari, sono legittimi. Questo è quello che pensa il PDL. Io in parte devo dire che quando uno... voglio invece capire dal compagno Gozi, sì. Gozi libero, dal compagno Gozi, voglio dire questo, cioè quando la guerra arriverà allo scontro altissimo, arriveranno a circondare il Quirinale, a fare una nuova manifestazione come stanno annunciando, sì, che farà lui? Cioè, a quel punto qualcuno staccherà la spina oppure no? Questo è il punto. Ma cioè, guardi, questo governo bisogna farlo cadere, fatelo cadere voi allora, no? Io credo che abbiamo assecondato l'irresponsabilità di Berlusconi della destra già troppo, e è ora di finirla, certamente è ora di finirla. Se di nuovo continuano e vogliono utilizzare lo strumento delle larghe intese per prendere in ostaggio le istituzioni, noi dobbiamo salvare le istituzioni e rinunciare alle larghe intese. È possibile fare un altro governo? Gozi, è possibile fare un altro governo subito? Io spero che non arrivino lì, ma io spero che non arrivino lì, perché voglio dire, non è che possa, con tutti i problemi che gli italiani hanno, non è che possiamo adesso addirittura cerchiare il Quirinale, come diceva, per i problemi di uno, perché dopo tutto lui è uno, sarà pure un record man, ma è un italiano, uno. Senta, uno, ma l'atteggiamento uno del PDL è eversivo o no, secondo lei, in queste ore? Beh, io credo che non so se arrivano all'eversione, però diciamo che ci stanno molto vicini, perché nel momento in cui si dice, dato che il giudice supremo in Italia, sì, che è la Cassazione, vuole evitare una prescrizione e per questo noi dovremmo andare sull'Aventino e bloccare i lavori del Parlamento per 3 giorni, penso che questo sia un discorso eversivo, sì. Discorso eversivo, lei cioè dice che sta con gli eversori, ma guardi, è una cosa clamorosa questa cosa qua, cioè se uno dice sto con una col PDL, gioco forse, io lo ricordo ogni volta per farle male, lo so, le voglio fare un po' male, sono un po' cinico da questo punto di vista e sono anche molto cattivo, sì, cioè, è molto cattivo per farle male. Sono stato uno dei più strenui oppositori e anche una delle principali vittime di questa cosa. Quindi... Ma lei non ci dorme la notte, mi dica la verità. No, riesco. Avendo una famiglia, quando sono a casa, prevale la famiglia alle larghe intese. Ma questi 101 traditori di Prodi, alla fine l'avete trovati o no? Uno almeno, non è mai uscita fuori una cosa. Lei sicuramente ce l'ha. Ma io ho un'idea su qualche decina di loro, però non essendo lì nell'urna, nel segreto, non... come faccio a dire noi, però ho fondate idee su varie di loro. Vabbè, ma prima o poi i nomi si faranno o no? Credo che non tanto magari noi parlamentari, ma fuori dal Parlamento ci sia gente che potrebbe farli anche non troppo tardi. Presto verranno fuori i nomi dei traditori, dice lei. Penso di sì, penso che dopo l'estate potrebbero venire fuori. Senta un attimo, ma è vero che state facendo delle figuracce pazzesche comunque con queste contraddizioni, leggibilità, ineleggibilità, i documenti di 70 senatori contro quello che è successo in Parlamento ieri, c'è chi dice staccare la spina, c'è chi dice proseguiamo la responsabilità, insomma delle figure di palta pazzesche o no? Ma guardi, è evidente che essendo nata su un tradimento, perché tutta questa vicenda è nata sul killeraggio di Prodi di Bersani da parte dei 101, ed essendo nata in assenza di altre opzioni, ed essendo nata sulla stressione fortissima dell'emergenza economica e sociale, è evidente che questa è una soluzione che dà dei mal di pancia, e i mal di pancia si possono evitare solo in un modo: facendo delle cose per gli italiani. Però scusi un attimo, ora abbiamo rinviato tutti, esatto, abbiamo rinviato tutto e in settembre deve arrivare questa legge di stabilità, lì ci vogliono delle soluzioni concrete per gli italiani, perché quella è l'unica possibilità di proseguire, l'unica ragione. Senta, il resto è follia, cioè quello che ho detto ieri è una follia, insomma. Senta, ma è meglio, ma ci sono i margini secondo lei per fare ancora un governo con i 5 Stelle? Cioè, ma io credo che se ci fosse una crisi di governo ci sarebbero e dovremmo lavorare su delle alternative e non dovremmo... L'unica alternativa è quella o no? Non ci sarebbero le elezioni. Ma io credo che quella... Io continuo a ritenere, nonostante il fatto che il Movimento 5 Stelle ha commesso una serie di errori enormi... Questi qua c'è gente che vuole oscurare Mediaset pure, su. Sì, appunto, che dicono delle cose a volte assolutamente irricevibili che non stanno in piedi. Però quella poteva essere la maggioranza veramente per il cambiamento del paese. Parenzo, sei morto? Che fai? No, sono qui, sono alla festa del Partito Democratico. Festa, alla seduta... Ma dov'è Parenzo? È alla festa del Partito Democratico a Roma? Alla seduta psicanalitica del Partito Democratico, credo. Ma dove? Quale festa è? Appunto. A Roma. A Roma. Ah, ma allora stasera ci vediamo, ci vengo anch'io. Viene pure Goggi, fratello, vieni così facciamo, vieni, ma che atmosfera c'è? È una seduta psicanalitica. Io adesso cerco di capire. Ma sono tutti depressi. Che atmosfera c'è secondo lei qui alla festa del PD? Sono depressi, stanno con Berlusconi. Essendo una festa del PD è un'atmosfera morta. Allora c'è grande gioia, dice. Ma non è vero, ha detto che è morta. Sì. Cioè, ha detto che c'è gioia, felicità e soprattutto credono in Epifani, cioè credono. Ma quando Epifani sia il futuro, tant'è che hanno anche stampato le magliette con la faccia di Epifani. Queste sono notizie che ti voglio dare freschissime. Allora io voglio dire sempre a Gozzi, ricordandogli, lui sta al governo con Gasparri, Verdini, Berlusconi stesso. Mi dà le convulsioni, se lei dice Gasparri mi prendo le convulsioni, non lo faccia. Perché le convulsioni? Perché? Poi la fa vomitare, perché, Gasparri la fa vomitare. Perché su. Siamo agli antipodi su tutto, io e Gasparri. Gasparri la fa vomitare, diciamo la verità. Siamo lontani anni luce. Ma poi ce lo diciamo in faccia reciprocamente. L'ho sentito una volta, sì, l'ho sentito. Vabbè, grazie Gozzi, a presto. Grazie a voi. Siamo qui, 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il giornale radio, con Parenzo collegato dal suo habitat naturale. La festa del pesta, insomma, no? Seduta psicanalitica del Partito Democratico, tutti depressi, eh? La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Oh, ma quanto si amano, Parenzo, le donne nel PDL. Per esempio, contro la Santanchè, De Girolamo e Lorenzin, che dicono viene dall'estrema destra, e l'altra ancora non rappresenta la maggioranza del partito, eh? Vedi? Che vedo? Cosa vedo? No, dico, vedi, siccome qualche tempo fa tu facesti sentire dagli archivi della Zanzara la dichiarazione del signor Fiano del PD e hai detto di che cosa stiamo parlando, criticando la sua uscita. Ora... Voglio dire che due compagni di partito ricordano che viene dall'estrema destra. Fiano aveva detto fascista, un'altra cosa. Comunque, vabbè. Vabbè, è una certificazione che viene da una certa area politica che è l'estrema destra. Ma senti Tareq Ben Ammar, sai chi è Tareq Ben Ammar, no? Storico, socio di Berlusconi. Tareq Ben Ammar è un uomo potentissimo. Ma non esageriamo, dai, non esageriamo. È una persona molto, molto ricca, soprattutto con vari interessi. Ma non anche... è potente. Potente, come si valuta la potenza, non quella sessuale, la potenza quella, beh, diciamo. In base a quante persone ti rispondono al telefono al primo squillo. Dici? Beh, anche sì. Senti come pronuncia Cicchitto. Allora, intanto questo Papa è geniale, perché ha dato un messaggio di civiltà e di tolleranza andando a Lampedusa. È una lezione di umanismo, ma non condivido quello che dici Cicchitto. Sì, sono belle parole, ma gli uomini politici è un'altra cosa. No, gli uomini politici, se hanno la lezione di civiltà e di Cicchitto, com'è Cicchitto? Cicchitto. Cicchitto, Cicchitto. Stupendo, stupendo. Ben Ammar, tunisino. Le cene di... guarda, non so chi sia questo Tareq Ben Ammar, è pure un arabo secondo me, guarda. Beh sì, è arabo, è tunisino. È pure un arabo, qualcuno dice che è stato amico di Berlusconi, qualche cretino, guarda. Mai visto cene così. Proprio perché è mio amico da 30 anni, lo rivendico, l'amicizia è una cosa forte in Italia come da noi, visto che siete arabi del nord, abbiamo i stessi benissimo valori. Mai sono andato alle cene di Berlusconi. Sono andato. Lei è andata alle cene eleganti di Berlusconi? Le cene geniali. Perché eleganti. Sono geniali? Perché io che ho fatto Hollywood, Cannes, non ho mai visto spettacoli, balli, musica, classe, delicatezza. Stia attento a quello che dici. No, no, no, mi chiamano. Giudici vogliono sapere come sono le cene. L'hanno chiamato i giudici? No, perché sanno che io dico la verità. Sì, va bene, Ammar. È sempre così. Ci sono decine e decine di persone che dicono sono cene eleganti, sono state cene meravigliose, la classe, la delicatezza, però secondo me questi era la prima parte delle cene. Dopo c'era un'altra cosa, erano affari di Berlusconi, però quando partecipate a queste cene poi non sapete quello che succede nella seconda parte, no? Nel retro bottega. È come quando c'è l'atto primo, non si sa cosa accadrà nell'atto secondo. Poi cioè, alcuni erano invitati a certe cene, altri ad un altro tipo di cene, cioè non è che Benammar era accanto all'Elemore a ballare, immagino, no? Dubito. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi frena i falchi, il governo va avanti ma niente sconti su IVA e IMU. A settembre torna Forza Italia. Schifani con la condanna, Letta cade. Epifani al TG3, dal PDL atteggiamento schizofrenico, prima minacciano, poi smentiscono, serve un chiarimento, lettera di 70 senatori PD, basta autogol. Letta attacca, chi nella maggioranza cerca solo visibilità e titoli dei giornali, fare le cose per bene, non per un risultato immediato e avanti con le riforme. Il Movimento 5 Stelle contro Mediaset, vuole sapere se è in regola con le concessioni per trasmettere, altrimenti, dice, va oscurata. In 12 anni scoperti 800 miliardi di evasione fiscale, ma ne sono stati incassati solo 69. Squinzi, la stagione nera non è finita. Al via la riforma della giustizia vaticana voluta da Papa Francesco, stretta su pedofilia, corruzione e riciclaggio, e scompare il carcere a vita. E 6 donne di Greenpeace stanno scalando il grattacielo di Renzo Piano a Londra. È una protesta contro le trivellazioni petrolifere nel mare Artico. La zanzara che punge nel vino. Micaela Biancofiore, White Flower, secondo Parenzo, la quale annuncia Urbi e Torbi ieri qui alla Zanzara che parlamentari e ministri del PDL hanno pronte le dimissioni in massa, sono state già firmate e recapitate sul tavolo di Berlusconi, che ovviamente secondo la Biancofiore può decidere del nostro destino in maniera così, può fare tutto. Noi abbiamo già dato le dimissioni in bianco praticamente, stiamo facendo tutta una serie di punti di cose che siamo e vogliamo fare con forza, determinazione, passione, affetto nei confronti di Silvio Berlusconi. Le nostre dimissioni di tutti sono già sul tavolo del presidente Berlusconi, di tutti, indiscutibilmente tutti. Hai sentito, no? Di tutti. Il fastidio e la rabbia. Vincenzo dalla provincia di Napoli. Vincenzo, dica. Pronto, buonasera. Vada. Innanzitutto complimenti per la grandissima e unica trasmissione che riesce a parlare così con le persone. Vada. I cervelli. Volevo dire, no, non appena ho preso la notizia di Bondi si autoelimina dalla politica, ho chiamato mia moglie, stasera si brinda, tutti con gli amici. Brindate lì con lo champagne, con la champagne. Un altro, se potete dare un consiglio ai magistrati, processate Maroni, così magari si toglie davanti al cazzo anche Calderoli. Ma magari che c'entra adesso? Che sia un virus, così magari si autoeliminano e diamo un po' di spazio più ai giovani, ma per favore. Vabbè, sì, giovani e vecchi non c'entra niente. Vabbè, allora Vincenzo, voi brindate stasera. Brindate. Bene, perfetto, grazie. Ma perfetto che? Perfetto. Angelo dalla provincia di Brindisi, perfetto. Angelo. Sì, ciao. Dica. Anch'io sono molto rallegrato dalla presentazione delle dimissioni di tutti questi vecchi personaggi del PD. Ma non se li mette nessuno qua, ancora non avete capito? Cioè, sono tutte finte, sono tutte cose che non hanno senso, che poi non si tradurranno in nulla. Io dico, non si rimette nessuno. So che non è vero, so che non lo faranno. Allora? Niente, io rivolgendomi soprattutto all'onorevole Bondi, vorrei dirgli da parte di tutto l'elettorato deluso del PDL, vorrei dirgli un bel e chi se ne frega. Va bene, Raffaele da Roma, buonasera. Oh, ciao. Dica. Allora, subito una cosa velocissima, Cruciani, continua così che mi fai ammazzare dalle risate, sei l'unico che dice le cose come stanno. Secondo, mi interessa la tua opinione proprio su questa cosa. Ma non hai l'impressione un po' che tutta questa storia di Berlusconi ma un po' cos'è? Come ma che c'hai in mano, Raffaele? Ah, c'è un figlio. Stai torturando tuo figlio? Che succede? No, è lui che sta torturando me. Vabbè, allora. Non hai l'impressione che tutta questa storia di Berlusconi sia un po' come quando hanno incastrato Al Capone per evasione fiscale? Cioè, ne ha fatte talmente tante Berlusconi, io non sono né pro né contro, premesso, è solo un'osservazione, che insomma, voglio dire, a me ha fatto pensare a quello, cioè prima o poi per qualcosa ti dobbiamo inquadrare. Si possono fare tanti esempi, una cosa che va avanti da un sacco di tempo, questa cosa di Mediaset, però, per dire che forse effettivamente questa cosa delle oggettine è la più sciocca delle cose che forse. Sì, ma in questo caso il casino è su altro, non è sulle oggettine, cioè è la sentenza Mediaset, è un'altra cosa. Tommaso da Catanzaro, Tommaso, dica. Tommaso, con due. Sì, lo so, Tommaso. Ecco, bene. Senti Cruciani, io innanzitutto sono un po' incazzatissimo, sì. Anzi non un po', incazzatissimo con te. Sì, e perché? Perché ieri sera ha chiamato un calabrese e tu l'hai preso un pochettino in giro. Ma no, dai, su, come ho no? Giocato sul linguaggio, calabrese, dai, su, è per ridere, dai. Ma è per ridere con l'aspirata. Comunque io ti voglio chiedere una cortesia, gentilmente, siccome tu hai molte amicizie politiche. Bah. Io non sono amico di nessuno. Devi organizzare uno streaming, sì. Di me che prendo a calcio in culo un politico. E perché? Perché sì. Perché vuoi prendere a calcio in culo un politico? Scusa, Tommaso. Perché lo vogliono fare tutti gli italiani. Questo è il vero desiderio degli italiani. Cioè, tu chi vorresti avere là accanto da prendere a calcio in culo? Il primo, la prima persona che ti viene in mente? Chi? Chiunque. L'importante è che non sia una donna. Beh, ho capito, però anche. Cioè, tu distingui. Qualsiasi uomo politico. Se perché una donna una cortesia, no? Parenzo, no, vabbè, hai sentito questo o no? Per galanteria. Parenzo, ma che cazzo sta facendo questo qua? David! Vabbè, Parenzo non fa mai un cazzo, quindi. David! Ma che vuole questo? Ho capito, ma io ti chiamo quattro volte e non rispondi. Ma che vuole questo poveretto? No, poveretto sarà lei, Parenzo. Come si permette lei di dire che non faccio un cazzo? Ma io chiamo i sindacati, ma come si permette? Ho capito, ti chiamavano, rispondi. Scusa. Ma non mi chiamavano il diritto di non rispondere, me l'ha detto anche Landini. Ho parlato col sindacato, uno ha diritto a fare lo sciopero della parola quando sente delle sciocchezze. Sai, sciopero della parola. Volevo farti pure i complimenti per la trasmissione, guarda. E che c'è? L'ho vista tutta e mi è pure piaciuta e reagisci così. Se tu non rispondi vuol dire che non stai facendo un cazzo, scusa. Ma non ha tutti i torti, signor Tommaso, No, su questo ha ragione, sono partito all'attacco essendo in torto. Sandra da Firenze, ciao Tommaso, Sandra. Dica. Dovevi dirle vaffa, ma non glielo dico. Dovevi dirle vaffa perché non le piace quando la salutano, per cui, però non glielo dico. Volevo solo intervenire sul fatto. No, pure no, i cani ci abbiamo. Allora? Brunetta, pure i cani ci abbiamo in diretta, pure i cani, pure i cani, dai bambini ai cani, vabbè i cani in Parlamento, non è male come battuta però. Senta, no, volevo solo dire, no? È che cioè, mi sembra stupido che si continui a parlare di sta roba qua, no? Che quale il roba? PD contro il PDL, il PDL, il PD fa schifo, gli fa schifo, al PD fa schifo il PDL, PD e PDL sono d'accordissimo, sono d'accordo da sempre, perché il PD rischiava con Grillo, che Grillo gli prosciugasse tutti i voti, per cui ha dovuto fare un'alleanza con Berlusconi. Però lei dovrebbe informare la gente e dire le cose come stanno realmente, un uomo intelligente dovrebbe dire queste cose. Ma su cosa? Perché, ma su cosa? Su quello che è realmente lo scenario politico. Non le che è come lo dice lei? Come lo dice lei? Oppure PD, certo che ma così, stanno insieme al governo, certo che stanno insieme, ma che vuol dire Sandra? Allora dica anche che il PD costa agli italiani 80 milioni di euro l'anno per mantenere il suo palazzo elefantiaco con più stipendi e contributi che gli paghiamo noi. PDL 35 milioni di euro l'anno e invece il Grillo ancora non si sa. Diciamo le cose come sa, gli italiani pagano, sono stanchi. Guardi Sandra, io ho detto sin dall'inizio che il Movimento 5 Stelle farà una grande cosa quando a luglio non incasserà i soldi del finanziamento pubblico dei partiti. Per cui proprio su questo punto lei non mi può attaccare. Aldo da Carbonia. Aldo. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dica. Volevo chiedere, ieri lei ha detto che la Cassazione ha mandato tanti processi in prescrizione. No, io non ho detto questo, io ho riportato la lettera di un avvocato che mi ha chiamato dicendo con suo cliente che ha gli stessi termini di prescrizione di Berlusconi, più o meno negli stessi giorni, la Cassazione non si è sbrigata per ma niente. Ma non ha detto così, ieri ha detto ce ne sono a bizzeffe che la prescrizione. Sì, ma quello è sempre quello che ha scritto, è sempre quello che ha scritto questo avvocato e comunque ci credo perché ci sono varie testimonianze. Io vorrei sapere almeno tre nomi, poi ci aggiungo che non me ne frega niente, né di Berlusconi né anche degli altri, ma per precisare. Poi ci aggiungo una telefonata storica che non mi fu passata quando la fece, quando criticava giustamente. Scusi, ma non sarà un problema, no, ma non sarà un problema mondiale, un problema italiano se non le hanno passato una telefonata, Aldo? Parenzo, ecco appunto, Parenzo, digli qualcosa pure tu, dai. No, voglio dire, adesso che questo qui sollevi Vittorio Verone per la sua tele, ce ne fa volentieri a meno, diciamo. Quando era D'Alema presidente del Consiglio, Era il primo lui a scioperare contro il governo, ecco chi cazzo scioperava contro di lui stesso. Vabbè, Devo precisarle questo. E poi se si dà tre nomi che la Cassazione ha mandato in prescrizione, se non ancora ci sono una marea di processi che non so, che sono andati in prescrizione perché la Cassazione non ha fatto in tempo. Ce ne sono tantissimi, ci sono varie testimonianze ancora sui giornali, comunque sarò più preciso nei prossimi giorni. Abbiamo la borsa 800240024, torniamo subito. La Zanzara. Zanzare. Dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Giarrusso, io voglio riascoltare il senatore Giarrusso, questo barbuto dei 5 Stelle, il senatore Giarrusso che dice che Mediaset deve essere oscurata. Quinta colonna. Buongiorno. Ma lei fa ancora parte del Movimento 5 Stelle? Ma lei fa ancora parte del genere umano? Ma si levi dei piedi col suo programma di denigratori. Bene, con le offese cominciamo bene, ma un po' di cortesia? Da parte vostra? Sì. Grazie. In Siberia. E c'è un fresh della miseria. Non era in polemica che sei stato sospeso col gruppo del Movimento 5 Stelle? Lei sarà sospeso dall'ordine, penso, se continua a denigrare. Molto gentile, le ho fatto solo una domanda, le chiedo scusa. No, ma io sono... Che ne pensa delle dichiarazioni? A Mundelet per fa l'amore. Per chi si fosse perso, Giorgio Faletti, scrittore, eccetera, eccetera. L'altro giorno la Zanzara... Beh, Faletti, caro Parenzo, te lo ricordi? Ha detto finché Berlusconi... sentiamo, sentiamo. Quest'uomo, in certi versi, sotto certi profili è ammirevole, perché è una persona... combatte come un leone e poi risorge dalle sue ceneri. Anzi, io ho usato un'espressione, cioè uno di quelli che finché non hanno i vermi non sono morti, ecco. Beh, ho letto, caro Parenzo, la cosa mi dispiacerebbe assai, che la signora Santanchè avrebbe proposto l'occupazione delle autostrade, non so in caso di condanna o da subito, delle autostrade, ma tu ti ricordi quelli del PDL che gridano sempre contro gli scioperi, l'occupazione delle strade, dai, i servizi pubblici? Ma succederebbe un pandemonio, cioè quella gente che lavora, le autostrade blocche, ci sarebbe il più grande autogol di Forza Italia, del PDL, chiamano come ti pare, il più grande e clamoroso autogol. Ma pensa, la gente dice, perché state occupando la strada? No. Ma che te blocchi, non a lavorare. No, noi stiamo occupando la strada perché Berlusconi è stato condannato in Cassazione, oppure perché hanno fissato l'udienza per il 30 luglio e la gente... Scusi, non ho capito, voi state occupando l'autostrada, io devo andare al lavoro, perché? Per quale motivo? No, non ci sarebbe questa tranquillità, nessuno direbbe mi scusi, no, nessuno direbbe con questa civiltà che hai descritto tu, no, questo non succede secondo me. Oh, signor Bebo Storti è con noi, mitico Bebo, ben ritrovato, come stai? Buongiorno a tutti, molto bene. Si para davanti alla signora Santanchè, con te che devi andare al lavoro, no? Con la macchina, e dice sto occupando l'autostrada perché Berlusconi è stato condannato in Cassazione, dunque noi protestiamo occupando l'autostrada, tu come reagisci, signor Storti? Gli dico occupati anche di me, bella bambolona. Ho capito, però occupati di me in che senso, scusa? Dal punto di così, vista... insomma, dai, ma stiamo scherzando. Potrebbe essere vero, guarda, potrebbe essere vero. C'è un signore che sta per essere giudicato, condannato per dei reati che ha commesso, così sta provando la magistratura, insomma. Allora domani Pino, il pizzicagno, non lo beccano, che non fa gli scontrini, va in galera, lo facciamo? Tutti noi che andiamo al pizzicagno lo occupiamo alla strada, poi domani condannano un altro, tutti gli amici suoi... tutto il tempo c'è la giustizia, c'è lo soccorso, un signore ha commesso evidentemente dei reati, non dico poi, io. Poi vedremo, naturalmente, no? Vedremo, insomma, probabilmente tutto quanto, basta, la giustizia deve fare il soccorso, oltretutto i tempi di questa, di questo aspetta che non si sente, Parenzo! No, tu finalmente qualcosa sentiamo, perché sennò, Bebo, dove ti trovi? Io si sente benissimo, Storti che non... Bebo? No, cosa c'è? Io sono a casa, al mare. Si sentiva poco, dove stai al mare? Io sono in Liguria, vicino a Catania Ligure. Non ho capito, Lorenzo, non ti sovrapporre. Il comunista con la casa al mare, come direbbe la Sant'Anche, subito. Beh, certo. Sì, certo. Ma io gli risponderei sempre, bella Topone, vieni a occuparti di me invece di rompere le balle, dai, muoviti. Senti, ma i leghisti, beh, ultimamente ci sono state alcune perle, compresa quella di Boso che ha detto che è contento se... Che è contento. Sì, beh, ma lì siamo minus abens, lì siamo veramente una persona pubblica che diventa una carica pubblica che... sfortunatamente qualche sprovveduto ha votato, libero naturalmente di farlo, siamo in una democrazia libero, una persona, per carità di Dio, ci mancherebbe, sì, una democrazia, certo. Una persona che fa una questione del genere, ma gli devi dare solo due sberle, è grosso, perché no, ma è giusto, non puoi, queste povere anime che vengono su quei barconi, fuggono da situazioni, da luoghi improbabili, dove vengono perseguitati, dove muoiono di fame, dove non hanno lavoro, e tu, il Papa è appena stato lì, da una dimostrazione di grande umanità. Però grande... scusami Bebo, ma questi qua che si imbarcano lo sanno che possono crepare, no? In quel braccio di mare. C'entra, lo certo, sanno allora, che possono affondare. Allora, siccome io so che Boso può uscire di casa e sfortunatamente un camion lo può prendere, cosa faccio? Dico che si, che se lo investono sono contento? No, mi dispiace se lo investono. No, ma non ho detto che ha ragione. Certo, non ho detto che ha ragione lui. Per la nostra gioia, capito? Cioè, per la nostra gioia sicuro, perché ci divertiamo come matti. Però, lascia... va al di fuori, cioè tu... Qua, perdonami se sono eccessivo, ma... No, devi essere eccessivo. Una dichiarazione del genere, tu esci dal... capito, dal conclave delle persone umanamente, socialmente... Un disumano, un essere abietto. Noi, anche considerando il fenomeno dell'immigrazione, ognuno, dal suo punto di vista, nessuno si permette di fare una dichiarazione così orribile. Nel momento in cui la fai, tu rinunci ad essere trattato decentemente, no? E quindi se ti mandano a cagare per strada, io... non lo sto mandando a cagare, ma se qualcuno domani... Ma se tu lo incontri, lo incontro per strada, capito? Se tu incontri Borghezio per strada, che fai? Tu che sei così... Io cambio marciapiede e sto attento a non pestare, lascia stare, dai. Dai, lascia stare, che lascia stare? Dai, cioè... ma io spero di non incontrarlo mai, mettiamola così. Ma perché? Scusa, perché? Perché, ti ripeto, stiamo parlando di gente che ha superato, ha travalicato... il senso della civiltà, cioè non sono più esseri umani, non sono più. No, per carità, certo che sono esseri umani, però io personalmente mi sento in diritto a questo punto, se uno fa una canzone del genere, di trattarlo come secondo me merita di essere trattato, cioè dicendogli sei un cretino, perché se sei una persona orribile, sei disgustoso, non voglio avere a che fare con te, e se tu esageri, mi provochi, mi rompi i coglioni, magari, chi lo sa, in un momento così mi lascio andare, parte una cinquina e poi viene scritto da un altro, come diceva mio nonno quando ero piccolino, che gli rompevo le palle tutto il giorno, diceva, ti do le sberle a due finché non diventano dispari, così mi diceva. Ma vuole a sberle così, beh, ma potrebbe essere anche una soluzione, quella là. No, io non me lo auguro, perché io non sono un violento e non farei mai una cosa del genere, però ti ripeto, già commentare questa cosa è una condanna per queste persone, capito? Sono veramente... Senti, ma questi del PDL che dicono che in prescrizione non ci vanno nemmeno gli stupri, vanno in prescrizione, Berlusconi no, ho letto oggi una dichiarazione che condannare Berlusconi è come tagliare un arto al corpo della democrazia. Bondi ha detto che se Berlusconi non c'è più e sarà condannato, smette di fare politica, il paese ma è lui. Ma vai, cazzo, grandioso! Il paese è lui. L'ha letto? Che mantenga, che non faccio come hanno fatto gli altri, che hanno detto ce ne andiamo tutti, se invece sono ancora lì. Beh, capito che dichiarazioni si fanno, però, cioè tutto. Sì, ma abbiamo perso il senso della realtà. C'è un signore, l'iter del suo processo, da quel che ho letto io, ha seguito la prassi che seguono tutti i processi di tutte le persone d'Italia. Che vanno in quella direzione, quindi non è stata forzata la mano. Beh, adesso, negli ultimi giorni la Corte di Cassazione ha un po' però, affrettato i tempi, diciamo la verità, insomma si è un po' sbrigata. In realtà lo fanno con tutti, nel senso che per poter portare buon fine il processo in un senso o nell'altro, non è che hanno accelerato i tempi, hanno detto siccome ci sono di mezzo, oltretutto quel tipo di Cassazione si raduna e lavora apposta durante i mesi estivi per evitare che certi reati non comunque, vengano processati. Comunque Bebo tu stai facendo una campagna contro gli F-35, sei fissato con questa storia. Sì. Ma che t'hanno fatto sti F-35? Ho capito, ma sti F-35? Se poi avessi saputo che erano degli elicotteri che spegnevano l'incendio, mi sarei ben guardato a dire non comprarlo. Meno male che Boccia mi ha illuminato, io vivevo nell'incoscienza e pensavo fossero degli aerei che sganciano le bombe e ammazzano la gente, invece vengo a sapere. Si parla anche dell'amnistia, dell'amnistia Berlusconi, ti dico. Amnistia, addirittura. Sì, amnistia, sì. Qualcuno chiede. Il nostro Presidente della Repubblica. La grazia a Berlusconi, la grazia anche. La grazia. Ma i figli di Napolitano. La grazia, ma ne ha già trombate tante, anche la grazia gli dobbiamo dare. Cioè, mi sembra eccessivo, poi è anche uno a cui mi pare non manchino. Ciao Bebo, a presto, ciao. No? A presto, ciao. Ciao caro, ciao. Americo, la Caserta, buonasera. Americo, dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, volevo dire alla Biancofiore che le dimissioni le devono presentare, protocollare, le devono presentare alla Camera dei Deputati, al Senato. Sì, ma l'abbiamo capito, lo sappiamo. Queste pagliacciate, ormai abbiamo la pancia piena, insomma. E se permette, signor Cruciani, le devo dire una cosa per ieri, per gli immigrati che scappano sui barconi, lei fa una bellissima trasmissione sul nazismo, stasera la vedrò, insomma, vabbè, quella è un'altra cosa, allora? No, però immagini quegli ebrei che stanno entrando nelle camere a gas. Ma non è la stessa cosa. Immagini che riescono a scappare e a imbarcarsi su un barcone del genere. Che stupidaggine. Quelli fuggono dalla morte, perché giustificare, legittimare? Ma non è vero. Ma sanno a che vanno incontro. Se uno sfugge davvero dal terrore e dalla morte, naturalmente può essere accolto. Io non ho detto che tutti quanti, però non è che quelli che vengono in massa sfuggono tutti dalle guerre civili o queste cose qua, non è così. Insomma, se non tutti, il 90%, insomma. Poi voglio dire, poi giusto un secondo, questa, quando il Boso, insomma, se la prende con questi poveri cristi, insomma, che delinquono, che fanno, ma perché noi li dobbiamo lasciare in una situazione di illegalità? Cioè, io sono un imprenditore, io voglio assumere una persona di queste, la voglio assumere, non posso farlo, non gli posso fare un contratto di lavoro perché non hanno il permesso di soggiorno. Cioè, per avere il permesso di soggiorno è un cane che si morde la coda, insomma, e loro praticamente sono condannati all'illegalità, all'emarginazione, perché senza quando noi siamo stati 50 anni fa, siamo stati anche noi emigranti, noi quando siamo andati in Svizzera, in America, ci hanno fatto il contratto di lavoro, in seguito al contratto di lavoro abbiamo ottenuto il permesso di soggiorno e siamo diventati cittadini di quel paese. Va bene Americo, grazie, l'abbiamo già sentita sta favola. Antonio da Benevento, buonasera Antonio. Buonasera, ci sta Parenzo? C'è Parenzo, c'è. Ciao. Biancofiore ti fa ridere, quel candidato di coerenza del PD di prima, che cosa ti fa? Ti fa piangere, penso. Perché? Ma qual è il campione di coerenza? Scusi Antonio, quello chi è? Quello del PD che ha detto che si sente male quando pensa che sta... Alle convulsioni, alle convulsioni, quello mi fa piangere, quelli sono problemi suoi, cioè non credo che... Quello lo fa ridere, quello lo fa piangere, vero? Ma perché? Ma che considerazione volevo dire un'altra cosa, aspetta un attimo, volevo farmi dire solo questa cosa. Daniele, premesso che sono un socialdemocratico, ma quello lì, no, quando è caduto il muro, prima. Socialdemocratico. Vabbè, allora... Volevo dire, io vado a votare il PDL senza guardare, lo sai perché? Perché? Perché penso che veramente ci sia un accanimento giudiziario. Allora, un ponte dei Paschi di Siena, lo scandalo più grande d'Italia, Telecom Italia, come si chiama, gli imprenditori rampanti di Talema, un'azienda di 115.000 dipendenti, chiudeva sempre in attivo, 40.000 dipendenti. Oh, che 40 palle, miliardi, adesso ci rifà tutta la storia di Telecom, 40 miliardi di debiti. Tutta la storia di Telecom, Vabbè Antonio, grazie. Enzo da Roma. Arrivederci, Enzo da Roma, buonasera. Enzo. Pronto? Dica. Sì, Cruciani, senti, io ti volevo dire una cosa, ma... Che mi volevi dire? Ma Berlusconi quanti soldi ti dà per parlare male del Movimento 5 Stelle? Senta, io non la mando a fare in culo, perché questa sera non la voglio mandare a fare in culo, però sarebbe veramente da mandarla a fare in culo. Te nella vita hai solamente due certezze: primo, che sei corrotto; secondo, che sei un culattone. Ma sarà corrotta tua nonna, Enzo? Che voi siete una sarà corrotta sua madre, io non sono corrotto. Cruciani, Cruciani, tu fai parte di una combriccola fatta sì. da Emilio Fede, Paolo Liguori, la Santacchè, sì. Quel despota di Giuliano Ferrara. Sì, despota, sì. Questo è un malato. Vi siete uniti, sì. pagati da Berlusconi, sì. e state facendo la guerra al Movimento 5 Stelle. Sì, sicuro, guardi Enzo, sicuro. Ma se l'ha pure votato lui, il Movimento 5 Stelle. Lei ha capito tutto, Enzo, è proprio... Sì, ma guarda, ha fatto un'analisi perfetta, caro Enzo. Lo sai, Cruciani, che non ci sono non c'è bisogno neanche delle prove, perché... è proprio si sente da come ragionate, che sì, da come ragiona. Invece quello che ragiona bene sei tu, no? Sì, sì, sì. E poi ti voglio dire una cosa, io ti prenderei a te, a tutta quanta la tua famiglia, ti porterei sopra una zattera, sì. e ti metterei in alto mare, sì. e poi voglio vedere come te la cavi. Sì, ma perché non ci vai tu sopra una zattera con la tua famiglia, scusa? No, perché no, ma perché non ci vai tu? Ma perché non ci vai tu? Io non ci voglio andare sopra la zattera, ci vai tu sopra una zattera. Allora non ti... Però allora non ti puoi permettere... Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Non mi posso permettere di dire cosa? Che quelli no. che si imbarcano sanno che possono morire? Io questo ho detto. Ma se quelle persone fossero nate, che ne so, in Norvegia, in Svezia, secondo te sarebbero scappate? Ma cosa... No, ma è scontato che non sia così. Certo che no. Certo che no. E allora? E allora uno... Chiaramente, cioè tu dimostri di essere una persona insensibile. Insensibile, Sì, perché facendo questi ragionamenti poi uno, capito, fa uno più uno e comunque... Ma uno più uno che? No? Ma tu hai detto, spero che tu e la tua famiglia andate su una zattera... Certo, perché io ti farei vivere questo tipo di esperienza a te. Ma la viverai tu questa, io non voglio vivere questa esperienza. No, se ti salvi, torni a riva e cambi idea. Torno a riva e cambi idea. Dammi retta a me, Cruciani. Sì. Mamma. Perché te l'ho detto, te nella vita hai solamente due certezze, che sei corrotto e sei culattone. Sì, ma culattone che vuol dire, scusi? Non culattone che tu hai detto davanti a Paolo Villaggio, che te lo sei fatto mettere. Sì, ma veramente non l'ho detto davanti a Paolo Villaggio, che te lo sei fatto mettere. Guarda che te l'hai confessato davanti ma a ma non l'ho affatto confessato, Enzo. Cioè, Parenzo, ti risulta che io davanti a Paolo Villaggio ho detto una cosa del genere? Adesso può essere che abbia perso quella battuta lì, bisognerebbe chiedere all'archivio della Zanzara di ripetere. Se fosse, anche fosse vero, non è che la cosa mi scandalizzerebbe, io non l'ho sentito. Ma non l'ho detto, ma ti pare che ho detto a Paolo Villaggio no, come me lo sono fatto mettere dietro, ma che vuol dire? Mi risulta che tu sia considerato uno dei più grandi amatori. Ma non è vero nemmeno questo. No, questo è stravero. Uno dei più grandi amatori a livello se non altro europeo, vabbè, non mondiale, ma europeo pieno di donne, con cose, eccetera. Dopodiché è grandissimo amatore. Dopodiché, se c'è anche quel piacere là, io questo francamente non lo so, ma non cambierebbe l'opinione che ho di te, cioè di una persona cinica, brava a fare il suo lavoro, sprezzante. Ideologicamente non credo vicino al PDL, questo non si può dire, ma no, non mi stupirebbe, cioè se ti piace anche banalmente il pisello non è una cosa che mi darebbe fastidio. Scusi Enzo, qual è il problema? Io sono corrotto e lo piglio nel DDL. Corrotto no, questo no, questo no, non credo, guarda, questo assolutamente guarda, no, corrotto no. Guarda, ti posso dire una cosa? Stronzo sì, corrotto no. No, corrotto pure, lo sai perché? Perché tu con la scusa di dire ma io che mica ce l'ho con il movimento perché l'ho pure votati, tu c'hai questa scusa per far vedere alla gente che comunque non sei contro di loro, però si sente a 20 km sì, di distanza che quando lo dici che sei in malafede, perché Berlusconi si è comprato tutti, eppure te. Ah, è così, ma a quanto mi ha comprato secondo te? Beh, questo lo sai per te, perché giustamente io non lo so. Però poi una cosa, ma è proprio sì. necessario che ci dobbiamo sentire tutte le sere la Santa che è? Quella vecchia rifatta che fa la figa in radio e nessuno c'ha il coraggio di contraddirla. Ma voi quando interviene la Santa che vi mettete in ginocchio e gli leccate i piedi. Che ma io una così, se ce l'avessi, guarda, io te lo giuro, se una così ce l'avessi dentro casa, sì. io la prenderei a schiaffi dalla mattina alla sera. Enzo, a parte che ci sarebbero delle cose da dire sui piedi, sugli schiaffi, eccetera. Però la lascio così nel vuoto, al suo vuoto dentro, al suo vuoto mentale. La lascio alle sue follie. La zanza, la zanza, la zanza. Però era forte questo, Davide, era forte questo. bravo, combatteva bravo, con però Leone, c'è una cosa, una notizia che è drammatica oggi. Sì, qual è la notizia drammatica? Siccome questa è data radio della Confindustria, mi assumo la responsabilità di quello che dirò tra poco. Qual è la notizia drammatica? Beh, un altro marchio italiano emigra, cioè la Pernigotti è stata venduta ai turchi. Ma non me ne frega niente. Io credo che sia utile fare un approfondimento sui marchi italiani che vanno all'estero. Ma dico, ma sei impazzito o no? Ma vai a ecco. Forum Economia, allora, no? Vorrei fare una riflessione su questo, perché il marchio Pernigotti che vabbè, ha una dai, su, basta cioè... con queste cose. Basta con queste cose. La senatrice Silvana Amati è con noi, Partito Democratico. Vabbè. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Senta, senatrice, ma è possibile, Parenzo, tu non sai che l'altro giorno al Senato della Repubblica hanno fatto sì, al Senato della Repubblica, nella prestigiosa sala Nassiria, hanno fatto una conferenza stampa, un incontro sui suini, cioè sui maiali. Sui maiali. Capito, Parenzo? Sui maiali, sulla protezione dei maiali. Sono degno. Ma scusi, senatrice Amati, ma come vi è venuto in mente di parlare di maiali al Senato? Perché sono appunto la campagna Sono Degno, quindi i maiali sono assolutamente degni, merita attenzione, noi abbiamo ritenuto di doverla propagandare, sostenere e possibilmente anche utilizzare per fare cose di civiltà in un mondo dove tanta civiltà non c'è. Ma scusi un attimo, lei si occupa dei maiali, cioè di come stanno io i maiali? Io mi occupo di tutela animali, quindi anche di maiali. E che c'hanno i maiali? I maiali sono i maiali, vengono là ammazzati. No. I maiali sono tenuti in allevamenti, sinceramente in molti casi assolutamente improponibili. Ma Giovanardi dice che volete bloccare tutto e dunque fate impedite la... No, noi non vogliamo bloccare niente, vogliamo che intanto si rispettino le regole, quindi le norme europee, visto che ci sono. Maiali. E in questo caso che oltretutto quelle povere bestie prima di diventare bistecca o prosciutto siano almeno destinate a una vita umana civile, diciamo, per quello che d'accordo, le riguarda. Però sono sempre i maiali, perché uno deve occupare il Senato per parlare, fare una conferenza stampa? Guardi, perché io penso che sia una cosa assolutamente giusta, perché quando maiali, a parte che Gandhi diceva che la civiltà di un popolo si misura da come tratta gli animali, quindi ma noi siamo come? Siamo incivili? Ritenendo che Gandhi sia una persona attendibile. No, per carità, senatrice Amati, ma dunque noi siamo incivili con gli animali, con i maiali? Beh, molti sì. Siamo purtroppo incivili, sì, purtroppo si passa da... Ma qual è il problema? Di attenzione al cagnolino col vestito, sì, con la personalizzazione, ha una serie di situazioni molto tristi. Questa molto triste campagna Non Sono Degno, che vi invito, ci sono dei video a guardare, sì, magari io sono molto interessato, assolutamente. Un attimo solo che c'è la pubblicità e torno. La Zanzara. Frase del giorno, caro Davide, è: se condannano Berlusconi bloccheremo le autostrade. Sono sicuro di che? No, che non sia un fake, visto che l'ha detto a Twitter. No, non so se è Twitter, credo che sia un'indiscrezione. Perché dici? Sinceramente, soltanto adesso, voglio, con tutto il bene che possiamo volere alla pitonessa, sì, io penso che soltanto un pazzo scatenato, poi non devo urlare perché sennò si distorce la voce, ma solo un pazzo scatenato possa immaginare di dire di politicamente di bloccare le autostrade per Berlusconi. Ma un matto, un pazzo, ma uno a cui va mandata, se l'aveva, lo dico con critica se davvero lo avesse detto, sarebbe... Ma se davvero lo avesse detto, ma sarebbe da mandare immediatamente, ma un intero reparto, tutti gli ospedali psichiatrici italiani andrebbero mobilitati. Beh, devo ma dire scusami che... Ma politicamente, ma ti sembra una stronzata o no? Ma dico, ma come si fa a dire bloccheremo le autostrade? Pensa la gente incazzata, no? La gente incazzatissima. No, ma poi io non mi devo arrabbiare, me l'ha detto anche il cardiologo, non mi devo più arrabbiare. Quando sei andato dal cardiologo, scusa? Ma sono andato dal cardiologo l'altro giorno, abbiamo sentito che ti arrabbi, no, mi ha fatto una ricetta dove ha scritto la zanzara, la prego, non dia retta alle provocazioni di quello là, sei stato definito sul certificato medico quello là. Ah, quello là, così. No, se resti tu, non ti devi arrabbiare, il cardiologo ha detto di stare calmo, se devo urla, sono alcune parole che mi mandano in bestia, ad esempio, che non devi pronunciare, la parola cicchitto mi crea una extra sistole. Allora, poi me lo mandi però tutto questo certificato con tutte le prescrizioni, Sì, di non urlare, di non arrabbiarsi troppo quando sento delle stronzate. Non posso più arrabbiarmi e urlare. La senatrice Silvana Amati è la grande protettrice in Senato dei maiali. Gli animali, anche dei maiali. Anche dei maiali. Senta, cosa potrebbe fare il Parlamento di più per i maiali? Ma guardi, intanto io penso che si potrebbe fare una commissione che faccia la verifica di come sono le situazioni degli allevamenti, perché se voi vedete il video che è promosso da Sono Degno, credo che difficilmente si potrà sorridere, perché quelle povere bestie sono alcune malate, molte aggressive tra di loro, alcune morte insieme ai vivi, e quindi insomma è una situazione che non drammatica. Credo venga voglia di mangiare la bistecca. Scusi, però signora, signora Amati, senatrice Amati, scusi un attimo. Se vogliamo essere un paese civile bisogna rispettare le regole, perché è una cosa principalmente senatrice Amati, la commissione che gli allevamenti siano civili, che ci siano le cose che servono, in modo che gli animali tutti e quindi senatrice Amati, prima di arrivare al macello, abbia una condizione di vita corrispondente a quelle che sono le loro esigenze. Signora Amati, mi sente o no? Allora, voglio capire una cosa, ma veramente lei vuole fare la commissione d'inchiesta sui maiali? Guardi, io penso che non sarebbe una cosa sbagliata fare un commissione d'inchiesta sui maiali, le regole dell'Europa, che ci siano situazioni di vivibilità. Però guardi, la commissione d'inchiesta non costa niente. Ma no. Parenzo, aiutami tu! Di fare le ispezioni e di far sì che la gente magari preoccupata è partita con i maiali, è partita con i maiali, corrispondente a quello che dovrebbe essere a prescindere. Non facciamo la sceneggiata che è stata fatta l'anno scorso da nobilissimi interlocutori televisivi, penso che tempo che fa, che cercavano di dire che occuparsi del taglio della coda dei cani era una roba di poco peso, perché ma non si riesce è partita con gli animali, con i cani e gatti, per non farli sentire piangere. Non credo che si dia un buon esempio di sé. Ma che fanno di che fanno ai maiali? Gli tagliano la coda? Che fanno? Allora viene tagliata la coda senza anestesia da piccoli, perché quando sono messi in gabbia è troppo strette tra di loro, senza paglia, senza niente, fanno i loro escrementi. Chiaramente poi si induce un fenomeno aggressivo e quindi si mordono e si feriscono. Poi non si curano quando sono malati. Io vorrei vedere chi di voi ha voglia di mangiare una bistecca di un animale malato, per esempio. E spesso si sono negli 11 ispezioni che sono state fatte, si sono viste queste cose. Però, un'associazione che l'ha sollecitato, mi sembra una cosa degna di facciamo la commissione d'inchiesta, per carità, ma tanto non servono un cazzo le commissioni d'inchiesta, per cui se le commissioni d'inchiesta, una in più, una in meno. Però Parenzo, io vorrei una tua opinione sulla commissione d'inchiesta sui maiali. Ho provato a dire prima, onorevole Amati, non mi posso arrabbiare. Mi hanno dato un certificato, perché mi fate? Perché? Adesso mi tocca urlare. Non mi interessa del maiale malato, non mi interessa nulla del maiale malato, nulla. Ma perché lei vuole mangiare delle cose che non siano buone? Perché si è giusto. Ma non voglio parlare di maiali malati, non voglio parlare di maiali malati, non voglio più. Che non è una persona civile. Sei incivile, Parenzo, non vuoi parlare di maiali. Ma per l'amor di Dio, ma perché i maiali malati? Non mi interessa niente dei maiali. Senatrice Amati, devo dire la verità. Sapere che c'è una commissione d'inchiesta per i maiali, ma neanche la commissione d'inchiesta su Moro è riuscita ad arrivare a nulla. Ma le pare che si fa una commissione d'inchiesta sui maiali malati? I maiali che mette qualche mulca, qualche allevatore un po' truffaldino, qualcosa porta a casa. Se la dice Amati, ma lei dormirebbe con un maiale? No, io cercherei anche di non mangiarlo se posso. Scusi un attimo, ma lei è una di quelle che ha fatto quella proposta di legge per proibire le pubblicità troppo spinte con il corpo delle donne? Sì, sono io. Diciamo che è un periodo in cui tutto sommato, continuando a occuparmi come una vita di diritti, non è che insomma mi farmi nulla. Il titolo a me piacciono, è greve come sempre fa libero. PD vuole vietare la gnocca, stupido, l'ho trovato meraviglioso. Forse non è una gran penna pensando agli animali quello che scrive una cosa così, ma non è che dice lei. Ma che vuole fare? Vuole denunciare libero? Anche ma forse non l'è detto, ci stiamo pensando, devo dire. A denunciare libero? Ci stiamo pensando, ma più che altro diciamo che vorremmo che anche in questo caso si rispettassero le regole. Ci abbiamo ben 3 risoluzioni europee nel giro di 10 anni. Ma dai, che chiedono che signora Amati, su Milano, dai, il vostro comune, no? Ma signora, il comune ha fatto una delibera del comune, una di giunta del, mi pare, la fine di ma giugno. Signora Amati, giugno. Ma signora, ma perché uno si deve interessare dei manifesti pubblicitari della gente con le tette di fuori? Perché? Perché le donne non sono pezzi di carne. Ma che vuol dire? Ma esistono da quando esiste il mondo le pubblicità? Ma perché? Che nessuna mica c'è nessuna censura. Ma poi ci sono già le regole su questo. Vuol fare anche lei l'utilizzatore finale? Ma che vuol dire voglio fare anch'io l'utilizzatore finale? Voglio dire, ma non è che se mi piace la pubblicità con una tetta di fuori significa che voglio andare a provare. Si dà la visione parziale e oggettificante della situazione, diciamo, più generale delle donne. Parziale, si oggettificante, ma che questioni dire? Che non sono positive. Tra l'altro, ripeto, l'Europa più volte, guardi, le varie opportunità, i comuni, voi siete del comune di Milano, il comune di Milano farà un regolamento per i manifesti che male detto. Male, ci sono le leggi già. Se uno fa un manifesto osceno, fa un manifesto osceno, non c'è bisogno, non ci sono, guardi, se no non se ne occupa. Ma non c'è bisogno di mettere, non c'è bisogno di fare una legge che vieta. Poi chi decide quando una cosa è volgare? Ma chi decide? L'Europa invita. Ma che Europa? Ma quale Europa? Ma è dai. L'Europa quella che tutti i giorni purtroppo Amati, abbiamo, diciamo, senatrice Amati, senatrice Amati, a me piacciono i manifesti con le donne con le tette di fuori. Punto. Ma se lei, come ho detto prima, forse non è così tanto civile come sembrerebbe, mica è colpa mia. Ma che se mi piacciono i manifesti con le donne nude, sono incivile? No, dipende. Adesso manifesti con le donne nude, dipende cosa viene fuori, quali sono i manifesti. Noi sappiamo che per quello che attiene alla pubblicità ci sono buonissime pubblicità in cui l'immagine della donna va benissimo. Ma non può esistere una pubblicità. Ma chi decide? Ma chi lo decide se sono pessime o no? Chi lo decide? Deve decidere, secondo noi, un'altra commissione, quella sui maiali e quella sulle donne, non ne posso più. Sono, no, non ce la faccio, non ce la posso fare. Anche importanti Parenzo, dammi una mano. Organizzazioni di pubblicità. No, voglio dire, adesso farà anche una commissione di fermare la pubblicità. Sì, ma quello già esiste, appunto. Vabbè, dai. Appunto, noi stiamo seguendo quella linea lì, non è che facciamo una roba diversa. Ho firmato la petizione. A lei cos'è che dà fastidio? Mi faccia un esempio, cos'è che dà fastidio? Mi dica una pubblicità. Non è questione di dare fastidio, la questione è che purtroppo oggi la pubblicità influenza molto. Ma le donne, le belle donne devono fare la pubblicità, le belle donne che facciano la pubblicità anche col seno un po' scoperto, con le gambe un po' scosciate, con gli atteggiamenti sensuali. Non mica vogliamo mettere scusi, senatrice Amato. Ma secondo lei, le pubblicità spinte? Le pubblicità, no, non è questo il tema, è possono, diciamo, spingere agli stupri. La pubblicità offensiva è una cosa diversa dalla pubblicità. Vabbè, la pubblicità offensiva non ci può essere una commissione che lo giudica, ognuno ha delle idee diverse su cosa è offensiva e cosa non è offensiva. Su questo la pensiamo diversamente, siamo però, in un paese libero. Senatrice Amat, io volevo capire questo, secondo lei alcune pubblicità spingono agli stupri? Beh, diciamo che c'è la convinzione che ci sia comunque un'induzione alla violenza quando la donna è sempre più considerata oggetto, quando no, è più pensa nel suo ruolo e basta, quando se ne vedono solo le parti, non quando nel linguaggio anche pubblicitario vengono, insomma, battute che non sono al massimo, che io non ho intenzione adesso di riprendere. Non sono... A noi ci dovrebbero chiudere subito. Per esempio le ragazze, le adolescenti soprattutto, sì, possono dall'idea della pubblicità anche avere delle induzioni di non riconoscimento di sé. In che senso? Induzioni a non riconoscimento di sé? Siano tutte cose degne di essere almeno prese in considerazione. Vabbè, poi la proposta di legge serve anche per discutere, noi non stiamo discutendo. Il Senato della Repubblica. Grazie senatrice, a presto, grazie. Arrivederci. Pubblicità, va, pubblicità. La Zanzara. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. White Flower. Ieri sera la White Flower alla Zanzara dice che Berlusconi ha già sul tavolo le lettere di dimissioni da parte di tutti, parlamentari, ministri, tutti. Noi abbiamo già dato le dimissioni in bianco praticamente, stiamo facendo tutta una serie di punti, di cose che siamo e vogliamo fare con forza, determinazione, passione, affetto nei confronti di Silvio Berlusconi. Le nostre dimissioni di tutti sono già sul tavolo del presidente Berlusconi, di tutti, indiscutibilmente tutti. Non mi molesta il moschito. Ieri sera ci voleva però Parenzo Sino Scanzi con noi, ci voleva Sino Scanzi ad affrontare la Biancofiore, perché noi lasciamo parlare un po', perché vogliamo un po' che esca fuori tutto il suo berlusconismo, no? Tutto il suo berlusconismo più estremo. Cioè, Sino Scanzi a dirgliene quattro qui. Poi ha detto anche che Berlusconi dovrebbe fare Scanzi yoga. Ormai è esperto in donne del PDL, in risse col PDL, sì. Lo yoga lo fa? Non lo fa, ma lo dovrebbe fare, perché deve scendere, come dire, dovrebbe scendergli assolutamente il diaframma. Come il diaframma, scusi? Il diaframma, sì, perché lo yoga ti fa scendere il diaframma e ti fa respirare meglio. E dunque Berlusconi dovrebbe fare yoga. Gli do un consiglio a Berlusconi, perché non la può gran bene, glielo dico sempre. dovrebbe fare yoga Berlusconi, perché in questo modo scende il diaframma. Giustamente uno mi scrive: io con le pezze al culo devo pagare lo stipendio alla senatrice della commissione su Maiali. Devo dire che su questa cosa qui non ha tutti i torti, e la commissione su Maiali e la commissione sulle pubblicità, ma di che parliamo? Su, signor Giuseppe da Rimini. Beppe da Rimini, comunque, Giuseppe. No, volevo intervenire sulla RAI perché volevo sapere se ha dei problemi grossi mentali, perché... Perché? Mi sembra ovvio, ma puoi dire che la situazione in Italia va male per forza, perché se abbiamo dei senatori così, io penso che veramente siamo ridotti all'osso. Voi state facendo del male all'Italia, perché a far sentire questi personaggi ci si rende conto veramente che non abbiamo neanche più quel filo di speranza che c'era rimasto. Ma sono troppi, quello è il problema, quando ce ne sono oltre 900. Lei c'ha ragione, ma come dobbiamo fare? Mi dia lei una motivazione. Ho capito, perché, caro Beppe, quando ci sono 900 persone entra di tutto e può entrare, no, può entrare anche lei in Parlamento, ha capito? No, a parte che poi gli volevo dire, ma magari, perché mi divertirei. E poi le volevo dire sempre alla Mati che io, siccome abito a Rimini, sì, io tutte le volte ho distinto di violenza, perché ovviamente andando al mare ci sono, sì, tutte quelle donne con topless e quant'altro, quindi anch'io ho questo istinto di violenza ogni volta che vedo una donna. Ma lei parlava delle pubblicità, no, però delle pubblicità. Ah, sì, ho capito, ma veramente Cruciani, anche guardi, qui di cosa stiamo parlando, ha ragione, anche non c'è, la pubblicità che offende il corpo femminile. No, femminile, la pubblicità, no, che offende il corpo femminile. No, ma questo non ci voglio più far andare a gnocca, poi tra l'altro, perché io ho paura, perché ci tolgono anche la gioia, cioè è diventato veramente, non lo so. Io questa Italia purtroppo non la riconosco più, anche poi quando sento la Biancofiore, anche quando sento la Biancofiore, io sono stato un uomo, perché ormai ho 53 anni di destra, quella vera, sì, un amico intimo di Parenzo, come un amico intimo di Parenzo? Amico intimo, si fa per dire, però voglio dire, cioè, sono cambiati i tempi, gli ideali sono finiti, si sono uniti tutti quanti, sì, tutti quanti fanno la cricca, la dimostrazione dell'ultimo governo. Vabbè, adesso lei ha detto due cose abbastanza intelligenti, adesso sta sbragando. Vabbè. Ermanno da Brescia, ciao Beppe, Ermanno da Brescia. Buonasera. Parenzo, che hai fatto, sei morto? No. Non mi moleste moschitto. No, voi sono la Marianna Madia, se vuoi, qua vicino. E che ci fanno con la Marianna Madia? Dili se si vergogna di stare col PDL, Ermanno, un attimo, dili se si vergogna di stare col PDL. No, vabbè, no, non glielo vuoi chiedere, vabbè. Ma no, diglielo, se non le domandi questo, no, lo lasciamo perdere. Ermanno da Brescia, sì, dai. Buonasera. Sì. Io dovrei versare contributi per 43 anni, sì, per mantenere questi cialtroni. Ma cialtroni chi? Truffatori, chi? Ladri, sì, che si divertono a sparare stupidate e mettono l'immagine dell'Italia nel mondo, sì, come il paese del carosello. Sì, ma di chi parla, scusi? Sto parlando dei politici, dei truffatori, dei ladri, sì, che ci amministrano e che nulla fanno. Nulla anzi, fanno, gli paghiamo stipendi ricchissimi, sì, sì, per star lì a discutere di cose private. Sì. E dunque? Ma questo qui non è Italia, questo qui è il carosello, è Cinecittà. E dunque che dovremmo fare? È una vergogna unica. Dica? Che dovremmo fare? Che dovremmo fare? Tutti gli italiani regolarmente, sì, che versano i contributi dovrebbero partire, andare a Roma col bastone. Sì, e poi? Obbligare tutti i politici, non picchiare, sì, col bastone per dire girare le parole in bocca. E dica, andare... Tutti i politici dovrebbero rendere tutti i soldi abusivamente, sì, incassati. Abusivamente incassati. Poi? Come poi? Poi? Andare cioè a Roma? Tutti gli italiani dovrebbero rivoltarsi nella tomba, sì, per questi abusi, tomba, soprusi, truffe e quant'altro si può mettere assieme. Ho si capito. Prendono anche per i fondelli questi politici. Hai capito, Parenzo? L'annuncio di Ermanno da Brescia. Ho capito. Hai capito che c'è bisogno di un'ambulanzina, mi sa, eh? Ho capito che anche con il tono con cui parlava, recarsi a Roma con i bastoni... Ma quali bastoni? Ma quali? Ma stai lì a Bergen? Dove stai? Resti lì a Brescia, si mangia un bel kebab. Che andiamoci che qualcuno kebab senza mutande a Roma! Perché lei è una persona molto intelligente! Stia dove sei, lei! Ma stia a Brescia, resti a Brescia. Ma stia lì a Brescia, bravo, tranquillo. Ma stia a Brescia, tranquillo, non si agiti, Ermanno. Dite. siete della stessa qualità. Cioè? Sì, al pari di quelli che ho parlato. Cioè al pari dei politici. Giocate nella padella per mangiare soldi al popolo italiano. Che facciamo noi? Giocate nella padella, però. Giocate nel calderone. Del magna. Perché anche lei prenderà uno stipendio. Beh, che non sì. mi interessa. Beh, certo che prenderà uno stipendio. Condurre una trasmissione per raggirare, prendere in giro il popolo che no. Non può esistere una cosa del genere. Non può esistere. Beh, è così. Ermanno, l'abbraccio fortissimo. Ascolti, l'America ha 50 stati con un governo. Sì. Noi maiali europei abbiamo 25 stati con tre governi. Lasci stare i maiali. Bruxelles, Strasburgo, Roma. Lasci stare i maiali, che abbiamo già parlato prima dei maiali. Lasci stare, ho detto, le ripeto. Sì. Noi in Europa abbiamo 25 stati con tre governi. Sì. Perché dobbiamo mantenere i figli dei figli dei nipoti. Bene, se ha capito o se mi vuole prendere per il culo, vada pure avanti. E lei si tolga le mutande e vada fuori sul balcone. Senta, signor Parenzo. Ermanno, mi dica l'indirizzo esatto, scusi. Perché? Brescia dove? No, ma ci sono dei signori che adesso. Parenzo, spiegaglielo tu, va, che sei più abituato. Guardi. Non faccia il buffone, che è buffone abbastanza. Aspetti. Il telefono c'è là, se vuole. Mi dia retta, siccome abbiamo poco tempo e poche macchine in zona, ci dica esattamente dove si trova. In piazza Navona a vendersi. Ma perché le mutande? Uno si deve calare le mutande? Ma ha detto a me di rimanere a Bergamo, rimanga lui a Roma senza mutande. Ma perché a Roma senza mutande? Beh, Ermanno, lei ha bisogno dell'intervento, di un intervento rapido, quella è la realtà. Senta. È quel signore che mi ha detto a me di stare a Bergamo, stia lui a Roma senza mutande. Sì, Ermanno, mi dia un indirizzo a Brescia esatto, perché arrivano i signori, arrivano dei signori. Bene, ecco, lei è capace solo di fare carosello. Bene, come i politici. Signori con il camice bianco, prego. Caro Ermanno. Vabbè, comunque prendiamo l'indirizzo, grazie. Andrea da Como, buonasera. Buonasera Cruciani, Parenzo. Dica. Io ce l'ho una proposta. Per Qual è la proposta? Qual senatori è? Serissimi, politici di razza, suina, che vanno lì, quei cialtroni come dicevamo prima, che vanno in Parlamento. E sarebbe una proposta per tutti i maiali italiani, però i maiali veri, quelli che ci sono in giro per strada, cioè? Che ti trovi al lavoro. Cioè di reintrodurre l'obbligo della vanvera. Che non so se sapete cos'è. La vanvera è una specie di fischietto che si inseriva nell'orifizio anale, sì, nel culo, e quando, solitamente durante i grandi banchetti, e quando si stava lì a mangiare, intanto scappavano, però per non far rumore fischiava. Con quel fischietto lì uno si lasciava andare e poteva fischiare. Magari in altre versioni si metteva anche dentro delle erbe profumate. Cioè, non ho capito bene, cosa si produce con questa cosa? Si metteva nel sedere, quando uno scorreggiava praticamente fischiava. E dunque bisognerebbe metterlo adesso dove? Io suggerirei a certi senatori di reintrodurre l'obbligo, mentre invece per altri di togliergliela, perché sennò finiscono per parlare a vanvera. Ah, ho capito, è una cosa un po' complicata, eh. Complicato, però c'è certa gente che sta lì e parla solo, dice solo stronzate. Hai ragione. Noi li paghiamo i cialtroni, noi li paghiamo. Carmelo, dalla provincia di Messina. Carmelo. Sì, salve Cruciani. Chiuda la radio, grazie. Ah sì, scusi. Le volevo dire, siccome la sento spesso dire che quelli che partono con i barconi sanno. Spesso, due volte l'ho detto, spesso. Sì, no, volevo dire, perché le dico una cosa in dettaglio. Fonti del Ministero degli Interni, solo il 3% sa dove va a finire, il 97% viene da zone che si impegnano pure l'ultimo laccio della capra, che ce l'ha, e lasciano lì in eredità ai familiari il debito dei soldi che gli prestano i delinquenti per farli partire. Quindi lei si immagina uno che già non ha niente, non ha neanche gli occhi per piangere, la famiglia, tutto il vicinato si impegna anche appunto l'ultimo pezzettino di corda per le gare. E allora? L'ultimo. E quindi volevo dire che lei in un certo senso non quantifica mai la percentuale di gente che sa, glielo dico io, è il 3% di quelli che sanno dove vanno a finire. Lo sai che io non ho capito quello che sta dicendo? Che sta dicendo, scusi? Che il 97% dei migranti, come sì, si chiamano, quelli che cercano di fuggire. Clandestini, si possono chiamare anche clandestini comunque. Sì, poverette, se non sono messi in regola, se non li mettiamo noi in regola, sono clandestini, chiaro. Allora? E quindi il 97% non sa dove va. Ecco perché, siccome lei dice, ma loro lo sanno, non quantifica mai. Ma certo mai che lo sanno, ma che lei, a parte che lei crede a questi sondaggi, è evidente, no, che sanno che rischiano la morte, ma sanno che rischiano la morte, ma è evidente questo. Cruciani, scusi, non è un sondaggio, è fonte del Ministero degli Interni. Sì, ho capito, ma sarà pure fonte, il 97, a parte che da qualcuno le prenderanno queste notizie, no? Cioè è evidente. È evidente che ci sono degli infiltrati, chiaramente. Degli infiltrati, persone. Le persone che prendono queste barche sanno benissimo, ormai le informazioni circolano a cosa vanno incontro, ma non voglio dire niente cioè non voglio dire che è colpa loro, sto dicendo semplicemente che sanno, perché le notizie circolano, sanno. Carla da Mantova, buonasera. Non c'è, Franco da Foggia. Franco? Sì, sono qui. Dica. Niente, io vorrei essere aiutato da voi, perché abbiamo fondato un'associazione per la tutela del ratto. Ah, del ratto, Parenza, capito? Associazione per la tutela del ratto. Adesso vi devo salutare perché ho un collegamento con In Onda tra poco. Sì. Quello che posso fare è passarti però per una battuta al volo l'onorevole, che è un'esclusiva che ti regalo prima di aprire, l'onorevole Ernesto Carbone, deputato renziano del Partito Democratico. Io lo conosco bene. Uno dei firmatari della lettera. Ma che è deputato o senatore, signor Carbone? Signor Carbone è deputato? Sì. Allora? Lei non sa un cazzo come al solito, Cruciani. C'è la lettera dei 70 di oggi, ma ieri c'è la lettera dei 13. Perché il partito mamma mia, che noia. Di grafomani. Ma no, di grafomani. Così le fa un salutino. Va bene, va bene, va bene. Le fa un salutino. Intanto io faccio le prove tecniche per il signor Cairo. Intanto prove tecniche per il signor Cairo e lei parla con il signor Carbone. Carbone, ma vi state incartando, fate appelli, cose, divisioni, controdivisioni, uno che dice eleggibile, l'altro che dice ineleggibile, è un casino tremendo questo Partito Democratico. Che è un casino tremendo, lo sapevamo, però. Scusi, il capogruppo. Ci mettiamo mano e risolveremo il tutto, no? Quando dovesse arrivare Renzi, in teoria, no? In teoria, però scusate. Arriverà. Signor Carbone, io dico una cosa. Uno, il capogruppo al Senato, Zanda, dice che da tempo. No, però dice... Ernesto, cioè, signor Carbone non mi piace. Ernesto, no? Dice è ineleggibile, lo dice da un sacco di tempo. Quell'altro, il suo capogruppo, Speranza, dice che Berlusconi invece è eleggibile, che la legge non si può applicare, eccetera. Lei, che è renziano, che pensa? No, io penso che è eleggibile o no Berlusconi da più di 20 anni in Parlamento, ci ricordiamo adesso che Berlusconi è ineleggibile, dopodiché io non lo voglio vedere né in galera, non lo voglio vedere né eleggibile, lo voglio vedere a casa in pensione. A casa questo in pensione, che è quello che dice Renzi. Con i tuoi nipotini, però possibilmente non quelli di Mubarak. Scusa Ernesto, ma non ti fa un po' schifo stare con un partito come il PDL che adesso vuole bloccare addirittura la Santanchè, vorrebbe bloccare l'autostrada, che dice le dimissioni? Ma sicuramente è pesante sostenere un governo assieme al PDL, era un governo che andava fatto, ce l'ha chiesto il presidente Napolitano, ce lo chiedeva all'Europa, ci chiedeva di mettere mano a delle urgenze che andavano fatte. Vabbè, è pesante comunque. Sicuramente. Ma lì come sono? Siete più là c'è grande depressione questa festa del PD, cioè tutti depressi. Ma chi te l'ha detto? Ma sono depressi, c'è una grande è come una grande seduta psicanalitica, una cosa del genere. Ma no, ti ho visto oggi che l'hai scritto, ma non è così, assolutamente. Beh, come noi discutiamo, a differenza degli altri discutiamo. Discutiamo. Ciao Ernesto, pubblicità. La Zanzara. Se n'è andato un'altra volta, e questo se n'è andato un'altra volta, non ce la fa proprio, non ce la fa proprio, e noi lo vogliamo ricordare quello che fu un protagonista della radiofonia italiana, quello che fu un protagonista dei nostri giorni, un uomo che combatteva come un leone, lo vogliamo ricordare, ormai è, non dico defunto, sta cercando di riprendersi, però è ancora lì nella tomba, defunto, morto, lo vogliamo ricordare così. No! Mammo Scilipoti, buonasera!

stavamo prendendo in giro, ovviamente ridendo, una commissione d'inchiesta sulla situazione dei maiali in Italia, che ha organizzato nelle sale del Senato della Repubblica un convegno sui maiali. Io ho il diritto di prendere in giro iniziative di questo tipo, l'ha capito lei sì o no? Ma che cazzo c'entra questo? Ma cosa c'entra prendere in giro che cosa? Il fatto che qualcuno propone una commissione d'inchiesta mi fa solo ridere l'idea, una commissione d'inchiesta sui maiali in Italia, sulla condizione dei maiali in Italia. Ma perché non ci vai a vedere i maiali? Ma baci tu, baci tu. Sei un giornalista o sei uno che fa cabaret? Ma baci tu. E vedi i maiali e poi torna in radio e riferisci. A parte che fare cabaret non è una cosa così disdicevole. Io ho capito, Cruciano, la girate per la fittata, Cruciano. Ma non la sto girando, Pierluigi. Ma ci vada lei, me lo riferisca, io non ci vado per niente negli allevamenti di maiali, non me ne può fregare di meno. E allora che cazzo parli di questa cosa? Perché dai per dire che una persona sicuramente più pulita di te sta facendo qualcosa per difendere questi poveretti? Che ne sai che è più pulita di me? Crucia, che ne sai Gesù, che è più pulita di me? Comunque ti posso dare un'informazione che ti può interessare. Dammi un'informazione, fenomeno. Quando parlate di Radio Padania, sì, lasciate perdere la visita del Papa. Perché non parlate del fatto che hanno fatto trasmissioni su trasmissioni che io ho ascoltato, sì, per difendere Rosa Bazzi o Lindo Romano? Sì, mi ricordo. Parlate di questo. Mi ricordo nel passato, come no, certo, come no. Sì. No, nel passato l'hanno fatta pochi giorni fa un'altra trasmissione. Non lo so, andremo con gli avvocati difensori di questi animali. Andremo a recuperare Pierluigi. Ma su questo, per carità, va benissimo. Ci dà un suggerimento, lo accoglieremo volentieri. Niente. Fatelo. Sì, sì, non si preoccupi. E poi da sta ragazzo stia calmo, Dicendo così. Giusto per fare un'informazione un po' più corretta, va? Sì, un'informazione un po' più corretta, certo, certo, non si preoccupi. Siamo qui, siamo sul pezzo, Pierluigi. Ciao. Ciao, bello, ciao. Mirko da Torino. Salve, Mirko da Rovigo. Da Rovigo, va bene lo stesso? Sì, va lo stesso. Senti, io chiamo innanzitutto, buonasera, buona serata. Sì. Chiamavo velocemente per una considerazione. Allora, mi chiedo e non riesco mai a darmi una risposta, che poi effettivamente si evince che l'italiano è un popolo di puntini puntini. Perché allora ieri si è bloccato il Senato con tutte le problematiche che abbiamo dovuto al discorso sempre comunque sia di Berlusconi, no? Ma la domanda d'obbligo è, comunque c'è crisi, comunque c'è purtroppo in giro molta fame, ma perché il popolo italiano scende in piazza esclusivamente per le partite di Serie A, quando una squadra viene squalificata, quando dovrebbe scendere in piazza per cosa? Scusi, per cosa? Per cosa? Perché i parlamentari bloccano per mezza giornata i lavori del Parlamento? Per cosa? Ma perché lo bloccano? Sempre e comunque per Berlusconi. Cioè, noi italiani, non è che, cioè, per carità, 9 milioni gli hanno dato il voto, ma non è che per questo è legittimato a fare quello che comunque vuole. Io capisco tutti i parlamentari che giustamente se va giù Berlusconi vanno giù anche loro e quindi difendono la loro pagnotta, sì, eccetera. Però non è comunque comprensibile, cioè noi come popolo italiano, almeno come la vedo io, se si scenda in piazza, come ad esempio noi ce l'abbiamo tanti, io personalmente sono razzista, non ho problema a dirlo. È razzista. Parenzo, sentilo, ti prego, di qualcosa. Posso dirti che sono col mio fascia pubblicitaria. Bella, stupenda questa cosa. No, una cosa. Aspetta, che c'ho qui una militante, la signora Valchiria. No, aspetta, no, aspetta. Non è il suo nome. Ma chi è Valchiria? No, è una militante della festa del PD. Falli dire qualcosa di serio a sta Valchiria. Come si chiama questa Valchiria? Che dovrebbero fare i deputati del Partito Democratico? Far cadere il governo, andare via, sostenere. Che bisogna fare qua? Che è uno psicodramma collettivo, dice il signor Cruciani, che è contro di voi però. Ma non è vero. Prego. Pronto? Signora Valchiria? Sì? Lei si vergogna di stare al governo con Berlusconi? Sì. Allora dica qualcosa ai suoi deputati, ai suoi senatori, ai suoi leader, al signor Epifani, dica qualcosa. Va bene. Ho capito, ma si vergogna o no? Quanto si vergogna? In questo momento diciamo che stiamo facendo la scelta che dobbiamo per forza fare. Vabbè, l'interesse è quello di mandare avanti questo paese. Questo è quello lei, che posso lei dire. È pragmatica, è molto pragmatica, è molto governativa lei. Molto governativa. Molto. Viva Letta dunque, no? Viva Enrico Letta, o no? No, viva il Partito Democratico. Viva il Partito Democratico, ma quanto mi è pragmatica. Ripassi il telefono a Parenzo, grazie signora, grazie. Sì, prego. Grazie. Che dice? Ma hai trovato la più diplomatica di tutti. Sì. Mirko, Mirko, perché lei è razzista? Razzista perché comunque sia, basta guardarsi in giro. Però due cose. Ma basta guardarsi in giro che vuol dire? Basta guardarsi in giro. Allora, non so, allora io sono contro il giornale. Di Sallusti, tanto per. Vabbè, non è che uno no, e allora No, ma faccio una premessa. Oggi c'era una pagina giusta che parlava della Romania, sì, dove effettivamente si evince che è la seconda circa popolazione. Vabbè, però vada al sodo. Perché è razzista, le ho chiesto? Ma io sono razzista perché non amo il diverso. Non ama il diverso. E comunque, no, è il primo. Secondo, concordo. Parenzo, digli lei qualcosa, per favore, Parenzo. Concordo con lei. Traffico. Strade in diretta. Sull'autosole ci sono 4 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente avvenuto nei pressi di un cantiere, automobilisti incolonnati anche nella direzione opposta. E c'è un incidente nella zona di Marghera che blocca al momento la circolazione sulla statale 309 Romea in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo che alle 21 sarà chiusa per lavori notturni la A20 Messina-Palermo nel tratto compreso tra Patti e Falcone in entrambe le direzioni e a partire dalle 22 per circa 3 ore sarà chiusa anche la A4 Venezia-Trieste tra San Donato di Piave e Venezia Est verso Venezia e tra Meolo-Roncade e San Donato di Piave in direzione Trieste. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Ciao, come va? Bene, bene, come stai? Da quanto tempo? Ma non ho Parenzo, è sparito, adesso sta alla 7, non lo puoi martoriare, non gli puoi dire niente, non so. Però mi siete mancati, eh? Lo so, anche tu sei mancata a noi. Ti ho visto abbastanza ingrassata su un giornale, che è successo? Oddio, basta. Allora, mi hanno pubblicato sempre la foto che sono piegata con comunque che sto in una caletta isolata, comunque con una pancia che secondo me non è quella che ho. Poi domani pubblicherò le foto, sì, che sono vere di quella che sono, nel senso che i giornali vogliono sempre pubblicare foto che non sono idonee a quello che sono io. Scusate, e tu... mi sono veramente stufata. Infatti ho anche scritto una cosa a Novella 2000 dicendo, sì, che mi sono stufata di questa situazione, nel senso che e so problemi seri, questo. E so problemi seri, cara Flavia, so problemi seri. Mentre l'Italia va a rotoli, tu ti occupi delle foto di Novella 2000. Ma l'Italia non andrà più a rotoli perché ci sta per il mio movimento che sta per essere, ho fatto lo statuto e sta per, sì, essere. Allora siamo tutti più contenti. È la svolta, la svolta da Flavia Vento, dai, la su. Svolta, il movimento Fili dei Fiori, secondo me sarà un successone. Mamma mia, che foto, devo dire la verità, ma sembri cosa? Sembri una matrona tedesca, cioè una di quelle, una cicciona di queste delle che vanno. Vabbè, posso dirti una cosa, però. Chi se ne frega? Chi se ne frega? La vita è talmente breve, mi dà fastidio perché non ho questa pancia assolutamente. Però ma che vuol dire non hai questa pancia? Che hanno fatto il ritocco? Scusa, potete vedere tutti su un giornale che si chiama Novella 2000. Tesoro, pure se tu, se ti pieghi, ti fanno una foto comunque che non sei te, pubblicano sempre queste foto. Un sacco di persone comunque possono pubblicare foto brutte. E comunque i giornalisti hanno sempre pubblicato foto brutte. Domani su Twitter metto le mie foto come sono veramente, perché vabbè, mi sono stufata. Ma avrai delle altre foto di riserva di queste qua che utilizzi ogni tanto. Comunque, Flavia, il punto ma sei cattivo pure te, pure tu c'hai la pancia, comunque te l'ho vista. Ma quale ma quale pancia? Ma quando sì, mai? Sì, sì, ma sì, che sì, sei impazzita? Io ho la pancia, ma nella maniera più assoluta. Vabbè. Ma quando, comunque, ma quando me l'hai meglio, vista sta pancia? Allora, una donna con la pancia, donna di sostanza. Se quello si dice degli uomini, però, quello vabbè, pure delle donne, perché poi posso lanciare anche una spada invece contro magari le pin-up anni 50 che avevano queste forme morbide invece di queste anoressiche. O non voglio parlare delle anoressiche perché è un tema, insomma. No, perché totale, scusa, però no, di queste donne a stecchetto che devono essere, sì, per forza. Ma vuoi denunciare Novella 2000? Flavia, denunciare Novella 2000 perché ha fatto delle foto perché te si vede la pancia, che è quella che io quando sei venuta in studio l'altra volta ho visto che eri un po' così in carne, No, però io voglio denunciare Novella 2000 perché comunque secondo me mettono sempre foto che non sono idonee a quello che sono io e questa è una cosa diversa. E che lo fanno apposta, secondo te? Sì, ma l'hanno sempre fatto. L'hanno sempre fatto. Ce l'hanno con te. Il complotto contro Flavia Vento. Sì, ma il complotto contro su. Certo, ma lo sai benissimo quante volte ne abbiamo parlato, dai. Ma quando ne abbiamo parlato mai, veramente? È così. No, no, abbiamo. Ma chi è quel pelatino là che stava con te in questo servizio? Chi è? Boh. E chi è? Principe Azzurro, il famoso Principe Azzurro. Lo scopriremo solo vivendo. Mi hai tradito, eh? Mi hai tradito, vabbè. Vabbè, ma tu c'hai mille donne, su. Ma che ne sai? Ma sei impazzita, adesso? Assolutamente. Basta che io non ti ho mai tradito, perché te non siamo mai stati insieme. No, beh, certo, questo era uno scherzo. Mi hai tradito nel senso, hai tradito così una sorta di amore virtuale, come dire, no? ti sei fatta fotografare col pelatino. Vabbè, comunque, vabbè, ognuno. Senti, sai. Vabbè, comunque parliamo della politica italiana. Che ne pensi? Ma hai visto Berlusconi che è successo? Sta succedendo un casino. La Santa Chè vuole occupare le autostrade. Il PDL fa una rivoluzione per questa sentenza di condanna a Berlusconi. Beh, occupare una strada pure tu, no? Guarda, io non ho parole, posso soltanto dirti che sì? Non avendo parole credo che forse bisogna parlare di cose concrete. Che succede lì al Tritone? Ma il Tritone qui a Castello sta ballando col canguro. Sì. E poi ci sta la sirena che balla con la vongola. Sì. E qui al Castello, insomma, siamo tutti felici. Siete felici. Organizzerò una bellissima festa. Comunque dillo, Castello. Grasso è bello. Grasso è bello. Allora, io non sono grassa. Sei grassa, sei grassissima. Vabbè, dai, su. Ma dillo, sono. Grasso è bello. Ma dovresti no, dire. Giuliano Ferrara sarebbe contentissimo. Beh, vabbè, se mi paragoni a Giuliano Ferrara, che pesa 200 kg, non è carino. Beh, adesso non dai. Essere cattivo, Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara è orgogliosamente pesante. Orgogliosamente. Vabbè, io non sono ingrassata così tanto. Un po' di pancia, perché ti dico la verità, non vado in palestra. Ma perché mangi come una dannata, te lo dico io, cioè, mangi, si vede pure dalle foto qui, mangi come una dannata, una cosa pazzesca. No, io non vado in palestra. Ti scompare tutto con le col, vabbè, col andrò in palestra, se secondo ma sì, voi. Ma certo, ma guarda che io vedo queste foto, oggettivamente fanno rabbrividire queste foto. Sembri trasfigurata, è vero, vai. Che poi quando sei in piedi è diverso, quando uno si piega purtroppo esce fuori. Guarda, se vuoi vengo domani a Milano e ti faccio vedere che non sono trasfigurata. Ma no, io credo alle tue foto, guarda, mi metti paura con questa stazza che hai, non venire a Milano, mi metti paura. Ora, guarda, ma no, guarda, non ti preoccupare. Mi intimorisci. Ma che ti intimorisco? Mi intimorisci da morire. Vabbè. Ma non è vero, su. Vabbè, t'abbraccio, ciao. Va bene, un bacione a tutti. Ciao. Che c'era, Franco sul ratto? Che vuole questo il presidente del comitato per la tutela del ratto? C'è ancora, Franco? Franco? Sì. Allora, che dice il ratto? Eh? Non mi dica che non è interessato un argomento così nobile. Cioè? È la protezione del ratto, con tutte le gancherie che subiscono i ratti. Sì, Franco, non si sente un cazzo. Danilo da Verona, buonasera. Buonasera, Giuseppe. Dica. Io volevo riallacciare al discorso della senatrice Amato. Amato, sì, allora? Sì, e infatti io volevo solamente dirti questo, che la senatrice... Più che altro vuoi portare avanti il concetto degli animali che comunque sono indifesi. Ma cioè, vuole fare la commissione d'inchiesta sui maiali? Di che parliamo? Ma parliamo di voler occupare le autostrade, la più puttanata di quella, insomma, e poi ci. Vabbè, ma sono tutte puttanate, anche quella è una puttanata, che c'entra? Non mica ho detto di no. Ma non è una puttanata, perché alla fine passo il concetto che possiamo approfittarci di essere più indifesi alla fine. Senta, Danilo, il punto fondamentale è un altro: ci sono le leggi, ci sono i comitati, ci sono le associazioni che si occupano degli animali. Non voglio che al Senato della Repubblica ci si occupi della coda dei maiali, ha capito o no? E che non ci sia una commissione d'inchiesta. Ma però la bistecca la mangi, la bistecca. Ma bene, ci sono quelli che proteggono i NAS, tutto lo scibile umano. Marco dalla provincia di Modena, su, chiudiamo con Marco, dai. Marco. Buonasera Cruciani, volevo dica. Complimentarvi per la trasmissione. Vabbè, non ce ne frega niente, su. Non gliene frega niente, però no. Volevo solo capire, siccome sono un giovane inesperto, io faccio l'installatore. Sì. Non mi pare che lei sia giovane dalla voce, eh. Grazie, non ce l'ho voluto giovanile perché spesso cerco di scherzare. Però stasera volevo fare una riflessione, se sì. Mi può aiutare. No, la riflessione è troppo tardi perché... È possibile utilizzare magari sì. Questo spazio radiofonico in un momento di grave sì. difficoltà, in una radio che ho ascolto tutto il giorno e normalmente sì. si parla di argomenti seri. No, non è possibile. Se le va è così, altrimenti cambi radio e non ci rompa i coglioni. No, ci sentiamo alle 18:30 di domani. Radio 24. La passione si sente. La Zanzara.